su YouPorn sono. E allora cosa bella? No, su eBay, sto cercando qualcosa. Ah, hai ordinato roba? Eh no, vabbè, stavo chiedendo un preventivo là. Che va bene allora. Quello lo smette un po', solo non c'ha niente, è un problema di qualche tensione. Perché adesso, prima stava andando bene, guarda, ieri era perfetto, adesso è a 7 e a 9 modulato sale. Il trimmerino ce l'ha regolati, cioè da regolati, da cambiare, ricambi quel trimmerino, c'è a posto, capito? Ma non mi ricordo qual era. Attaccato al trimmer del CW, c'è un trimmer lì, proprio, sono uno a fianco all'altro, capito? Se aspetti 2 minuti ti dico, intanto dovrebbero essere uguali, ti dico quale trimmer è. Io va, stabile un casino. Lo devo levare alla staffa. Perché lo smito non c'ha niente. Se no avrebbe dato problemi anche ricezione. È bello. È fluido, dai. Viaggio alla grande. Ehi, già va bene, ma io. Sono le cose, mi ho perché si fermava perché c'è c'è in pratica il lago che dove c'è la plastica intorno, vedete, è leggermente deformata per il calore, oppure il trimmerino, ho capito. Adesso ti dico qual è il trimmer, te lo scrivi così quando ne voglia te lo apri, aspetta che vado a cercare quel baracchino e te lo dico subito. Il Connex 4000 però deve essere la scrivania del 2009, capito? faccio una vita, sai. Vabbè, vabbè. Aspettavo un attimo. Ma te l'ho detto, Claudio, non conveniva che aumentasse il CB. Sono importanti. Cosa fa? Che non conveniva che aumentasse il CB. A che tanto sono arrivati importanti? Aiuto e spero che finisca in fretta questo coronavirus, a voi pare indutti. Stamattina parlando con Angelino, che venivano abbattati, che venivano, a me ne arrivava 7. Ma quando stavamo parlando noi? No, tu non c'eri, eravamo solo 12. Ah, e con chi eri? Tu e Vannino? No, ero io, la Luca e l'altro di Portatore. Ti buono l'abortante, va bene con Gianluca a te. Sì, domani ti bacia. No, tra me e Gianluca no, ma con Angelino sì. Vabbè. Però anche qua se l'abortante supera 9 ti passa. Ma se rimane tra 8 e 9 non ti fa niente neanche a te, figurati. Ecco. E purtroppo con Angelino arrivava basso qua. Come gli arrivo io lo stesso, basso. E se metti la portante, se metti la portante per dire uno di Sassari ci copre. E sono i suoi latidotti sempre che pone la portante, i subiti a casa di bombolo. Ma lei, ma nulla? Ah, boh, un pinghinoso, Per carità, perché cazzo, parlo della fine, io vado a chiedere con questo. A me mi arriva bassissimo, Santiago 7 mi pare. Santiago 7 arriva qua, però se la mette giù nella parte bassa copre tutti, capito? Ma io non so. Un macco che non sa cosa fare da 90 alla sera. Poi vabbè. E se non sa cosa fare la mattina e la sera, ma fa entrare quando c'è gente e parla e passa il tempo. Ma non c'è gusto così, capito? È bello disturbare, fra, capito? Guarda, non si così attuata, ma voglio lì tutto, la tua casa. E le mie le balle. Mi stacco la mantova. Mi stacco la mantova. Mi attacco a 3 elementi, a voi giochiamo un poco. A puntare la sopra, a vedere. Giochiamo a pipì a qua. E beh, Pompo, stava chiamando Cla, non c'è. Sì, ti ha detto che il VR1. Ma qual è però il determinino? C'è qua 103 o il 103? Dove c'è scritto M sotto il VR1, c'è scritto M. Sì, ma il trigger so, qua un numero. C'è 103 e c'è qua 103. Ma non gioco, è parito Antonello, Antonello. Aspetta che sto prendendo la birra. Tocca le tutte e due. Chi su che funziona lo regoleggi. Sì, ah, uscire. Attento, molto pompa. Sì, c'è un patasso in mano, perché... Vabbè, va. Siamo pigliati. Comunque il 503. Guarda, se gli butti un bicchiere d'acqua, non entrano, si appara... Tutto l'altro da fare il regio. Ma ti ho fatto un casino stamani, va. Mamma mia, che... Pensavo di non toglierne i piedi, Ma come ci arrivi? Ha detto che devi darvi... Ho capito bene. Ho tolto i quarzi per pulire tutto all'interno, capito? Cazzo, gasinetta gli ho fatto. Gli ho fatto ricezione con trasmissione, ricezione. Vi sentivo nel 10, andavo a parlare ed ero nel 9. Mettevo nell'11, cazzo, vi sentivo e parlavo nel 10. Un casino gli ho fatto. Cazzo, non me li ho segnati, ne ho giocati tutti. Papurilli. Capito, che l'ho cambiato l'illuminazione, no? A quel vintage che ho comprato, l'ho fatto tutto blu con i led blu, è bellissimo adesso. E adesso mi gioco incasinato, meno male che avevo lo schema dei quarti che mi aveva toccato, se no guai. Allora li ho rimessi tutti ricezione e trasmissione con i numeri suoi, no? E finalmente sono riuscito a togliere i piedi, ma vi ci ho portato più di un'ora, mamma mia come sto, non ne docco più, capa, guarda tu che quella roba che io sognatevi, se no, allora io grazie signore. Adesso mi sentivo, ero mezz'ora già a mente, mi sentivo alle 10, stavo parlando dell'11. Boh, ho detto, ma non so chi scende, attaccavo il lineare. Oh, mi sentite, mi senti. Poi mi ascolto con... c'avevo l'altra radio accesa, vedevo lo Smith che si muoveva. Ho detto, cazzo mio, non sono nel canale 10. A voi due ne avevo l'11. Cioè, ho detto, bel casino fatto. Allora li ho tutti quanti tolti di nuovo, siglati, controllati, uno per uno, e messi. Messi, andavo a schiacciare la portante, guardavo se era giusto il canale con l'altra radio. E li ho messi tutti in ordine. Meno male ci sono riuscito, cazzo. Sto facendo merenda, col primo Nutella, cosa di te? Vabbè, Pitbull, cazzo, ma adesso sei sempre niente, tu la fate mangiare Nutella. Niente, sto facendo merenda. Come sto? Saluto e trigo. Buonasera a tutti. Stamattina l'ho comprata, anzi mia figlia l'ha comprata la Nutella oggi. Però noi lo facciamo con le pancake, capito? Preparare le pancake e poi se di qui sopra la Nutella e su chi andiamo. Ma non c'è il tempo per farlo. Cosa hai detto oggi? Stiamo cercando per i falli. Ah, vabbè, si fa lì ogni tanto, non sento. Dimmi tu. Dito il pancake. Pancake, sì. Chi è che ha detto buonasera, l'altro chi è? Ciao, Robè, buonasera. C'è Luca, Eugenio, Vapolo Torres, Franco da Rassorso, poi c'è Antonello Alessio, che sta caduto dalla Gadria. No, sono caduto, aspetta che sto facendo su il computer che si è messo incasinato, se. Non riesco a cedere, aspetta un attimo. Chi è Luca? Ti voleva sapere se era il 501 o 503? 503 o 503? 500, il VR1 ci ho scritto io. Se guarda, il trim è proprio quello attaccato a quello della CV doppia. C'è scritto CV doppio. Sì, ma c'è una sigla sopra, io c'è scritto 503. Il VR1, sì, ma sopra c'è scritto 503 ed è a fianco al CV doppio. Ehi, è già quello. Ah, tu stavi dicendo la parola del trim. Capito? Perché io stavo parlando invece di quello che c'è scritto sopra, capito? Non so per il trim, è a fianco, là, nello stampato. E comunque mi serve il 503. Sì, non è quello. Basta che non vengo di un cacciavettino, te la cogli subito. Sale e scende, schiacci portante e lo regoli. O limiti di spesa per aprire il CRC, mi fai fare mezzo giro, a parte mezzo giro dall'altro e è a posto. Sì, sale, se lo giro scende lo smette, capito, scende. E se lo sollevo sale, però non sale più di quel tanto. Sì, lui giro l'antenna, devo portare io, mi sono Smith. No, il centro è perfetto, trasmissione, clà. Ah, non lo so allora. Non lo so, se vuoi che te lo metta a posto io, dammi il tempo di togliere la mantova. Attacco da tre elementi, te la giro sopra e te la faccio mettere a posto io subito. Allora, c'è bisogno di lineare, no? Allora, potenziometro 503 trimot, resistenza regolabile, i 20 pezzi, 1,84 euro. Allora, è fascia, allora buon uffo. Allora, Roberto, che si dice da Ghero, che si dice? Chi colpa di Eugenio è lui il comandante del porto. È lui il comandante del porto a Porto Torres, hai capito? Come te la cosa, Eugenio? Anche stamattina, la settimana scorsa, hai fatto sbarcare gli spagnoli. Adesso questa settimana gli inglesi, i turisti inglesi, com'è? Cosa vuol dire turisti inglesi? Se non è ancora entrata una nave al porto, come fanno a dire? C'è nessuna nave al porto ancora, la Tirrenia è entrata alle 8:30 stasera. Come mai, Eugenio? Perché ha fatto avaria. Fatto avaria, capito? E ancora non l'hanno aggiustato. E le sta viaggiando solo una. L'ha bucato di gomme. Bucato di gomme, oggi. Mi hai sentito il comandante, Robè? Ha detto che è impossibile secondo lui, perché nave non stanno entrando a Porto Torres. Sicuramente stanno arrivando con gli elicotteri. È un casino andare su, eh. A Torino tu devi andare, no? Sentito che... c'è ancora un po' di casino a Torino, stamattina stavo parlando di 40 metri, c'è ancora un po' di casino, va bene, va bene. Franco, Franco, Franco, lascialo mangiare Eugenio, sta mangiando la Nutella, Pitbull. Ehi, lascialo mangiare. Finito, hai Pitbull di mangiare. Sì, dimmi una cosa, a te è tornata. Dove va? Sempre alternata c'hai con quel microfono. Cosa c'è? Eh, lì devi rivedere le connessioni, fra, sicuramente. Controllate, fra. Oh, ha funzionato per un po', poi non ha funzionato più. Prova a vedere se la cosa, la massa. Prova a fare quando stai parlando a mettere la mano sopra la cassa. O mantieni il flessibile. Fra. Bisogna mantenere, ma pare che è fruscente. No, vedi? Adesso tu schiaccia la portante, mentre stai parlando mantieni con la mano il flessibile del microfono e poi la molli. Ok, prova a vedere. Vedi? Si sente di meno, ma si sente. Poco fa non si è sentito nel passaggio di poco fa, cos'è Ducato? Il PL ho toccato, il connettore che ci ha attaccato al baracchino, o così, vedi? Allora, ragazzi, vuoi la massa lì? Se tocca il PL vuol dire che lì c'è qualche scarica, c'è, è per quello che ti fa alternata. Staccalo e riattaccalo, fra, anzi, fa una cosa, lo stacchi. Con un cacciavettino tocca la punta del PL con dove lo avvitti. Dove avvitti il PL, quindi la calza con la massa, no? Prova a vedere se ti fa scarica, se scarica il cacciavite. Quello della radio. E quello della radio, stacca il PL e con un cacciavite le fai toccare la punta del PL e poi la ghiera. Guarda se scarica e poi lo riattacchi. Sono qua, ragazzi, mi sono fatto un altro panino e una Nutella. Panino o spianatine, se ma niente? Panino a luglio. Buona, buona, buona, buona. Beh, fra. Non scarica. Non scarica? Tu che c'è? Roba di elettrostatica, vedrete, sta su Gabo. Un Gabo è nuovo. Allora, devo aprire un pezzo di vino. Alla carrozzeria di un ecopo, a UBL. Prova a vedere, però non deve lavorare così, di solito quando fanno così scarica, se non scarica non ce la fa, non so perché, a me un giorno l'ha fatto, vediamo ricorso, ne ho staccato il piede, ne ho messo la punta del cacciavite, ha fatto e non ha giubilato di più cosa. Prova a fare così, fra, metti un filo tra il connettore del microfono e il coso del piede dell'antenna. E così sta facendo, vedete? Ehi, ehi, ehi, ho saltato le cazze di la voce di boom, Maria. Ecco perché nella station, la stazione è saltata al massimo, che i saltatori quella imprego, la ripira, quasi su danno. Ti si sposta da una parte all'altra, se vuole ubbidi in alto, anche se c'è un porta saldatore, però la porta lo dite, devo prenderlo, va. Qua ti la ricompro la station, fra. La ricompro. Lui, perché la parte mi sembra una punta sottile e sottile. Prova, fra. Ma è importante. Adesso non ce n'è di rumore, adesso va bene. Cioè, va bene. Ma adesso no, di nuovo. Stringilo bene, cazzo, muovi un occhiellino, vai a che cosa. Oh, gliel'ho messo. Non c'è un occhiellino stretto, c'ha la carrozzeria del microfono. Però quando tocco il PL sopra, vedi, fa importante. Ma che attacco c'ha quel microfono? 4 pin. Oh, 4. E che connettore è? Alla 48, cos'è? È attaccato a coso, un connettore, coso, un connect 3006. Bisogna vedere se va bene a questo. Se non è il regano che devo attivare io che lo pongo a posto. E poi le fai il cacciavite da dentro. E Eugenio mi chiama. Si chiama Pitbull, di cui ho mosso, lo sai come ti trovate? Ah, il Chihuahua. Ah, il Chihuahua. così non ce n'è, invece, così non ce n'è. Cosa sei tu, Candy? Lavora in alto, guarda, è il connettore. No, sopra il connettore del baracchino. Ok, allora, devi fare, lascia perdere il microfono, dal connettore del baracchino alla cassa, sotto la cassa della radio, mettile un pezzettino di filo. Se non è il microfono, non è il microfono, non ci ammassa quella radio, gatti, non ci ammassa, capito? Non ci ammassa. Ah, filo elettrico, come non filo da imbastire. Filo la bugia, andava e puro. Hai capito, Robè? E così funziona qua, hai visto? Noi andiamo, abbiamo i baracchini con i fili, con gli occhielli. Oh, yeah, yeah. Vabbè, genio, non mi hai detto niente di questo microfono, eh. Sto usando un microfono anni 60, bene va. Tecla! Io vorrei che cambi il microfono. No, non me ne accorgo. È sempre la stessa modulazione. È sempre bene, cosa vuoi dire? Gappa gappa. E questo è un SBE. Vecchio stampo, anni 70, dai. Comunque va bene con queste radio. Mi sono accorto che stai usando pochi watt, quello sì. Sì, sto usando pochi watt. 6 watt, dai. Già va bene. Posso dargliene molti di più, ma già va bene così, dai. Se ci sentiamo. Quando ci sentiamo, attacco l'altra oppure aumento la potenza. Va benissimo. Va bene, Robè, un po' più bassa di prima, ma già va bene. Adesso c'è. Sì, così va bene. L'ultimo passaggio va bene. Sì, lasciala così. Aspetta, fra. Nulla. No, dal primo passaggio che hai fatto a questo qua è cambiata la radio. L'altra è più bassa, questa è più alta. Sì, alla grande. Così è molto più alta, ma stai fischiando, devi abbassare il micchigin. Ecco, così la puoi lasciare, così è 10. Così va benissimo. Radio 5 amplificata, bella forte. Franco! Yeah. Ma c'è adesso? Appena ce n'è. Ma l'hai messo bene come ti ho detto io? Aspetta. Guarda se c'è adesso. Sparito e poi è tornato, lo devi mettere bene. Sparito e poi è tornato, così. È lì il problema, dove stai lavorando tu, è lì il problema. Devi fare un pezzettino di cavo piccolino, possibilmente un giallo verde, capito? Un giallo verde che è bello, bello teccio, non grosso grosso. E glielo metti, lo avviti alla cassa del baracchino. Ok, alla cassa del baracchino, da qualche parte, qualche vite sotto che non si veda, e poi lo sbucci bene e lo avviti proprio, lo fai girare, dove c'è l'attacco del PL, e poi ti avviti l'UBL. E ha fatto così, ho fatto, come abbiamo fatto quell'altro delle 1060, più o meno. Non va bene. Ma la KPL l'hai fatto? Lì su del baracchino? Non hai capito. Ho messo la cassa del baracchino. E al PL del microfono. Al PL del microfono? Non c'entra niente il microfono. È lì sul connettore dell'antenna devi andare. Ah, qui. Qui. Tocchi dove attacchi l'antenna e non lo fa più, e lì devi lavorare. Cosa mettono un microfono? Vado a vedere adesso. Ma non si sente quasi niente adesso. Va bene. Vabbè. Beh, ora si intende un bel. Capito, dai, io lo faccio dall'interno, io lo faccio. Devi farlo bene, fra. Prima di chiuderla, provi. Fai uno spezzone di filo, provi, tocchi, dove non c'è più rumore, allora lo agganci, se no lo cucino fatino. Che capo, dai, già lo faccio diversamente adesso. Senta niente il microfono, fra, è un problema di rientro di radiofrequenza lì da dove c'è l'attacco all'antenna, tra baracchino e antenna. Un attimo di bianco per me, dai, Roberto e Eugenio. Già arrivo subito. C'è anche Luca e Eugenio, dai, parlate voi. Già sono qua io, già sono qua. Un ascolti Porto Torres, Roberto. Ho detto, un ascolti Porto Torres, ha detto così? Ma quando ti arrivo io da te, qua non può segnare? Cavolo, vabbè, sono 20 watt. Circa 20 watt. Sì, sì. Sono a qualche chilometro da Claudio. Oh, va bene. Ascolta, Eugenio, lo senti a Roberto Di Alghero? No, negativo, non lo sento. Zero, niente. No, poi va bene. Vediamo un po' Franco Di Sorso se ti ascolta. Franco, lo senti a Roberto Di Alghero? Un attimo, mi devo assentare. Ci sentiamo dopo, ciao. Ciao, Gino, dopo, ciao. Franco non c'è. Avevo un problema di alternata. Sì. Via. Che casino, oggi ha fatto caldo, Minchia, non sono lì ad Alghero, scaldato la giornata. Ecco. Ah, ok, avanti, beh. Vabbè Claudio, in QRX sono Franco da Sorso, in QRX sono lo stesso, buono, risponde. E Eugenio si è spostato. E siamo io, tu e Roberto, non so se ti ascolta Roberto, prova a chiamarlo, vai. Roberto mi senti? L'hai copiato Roberto? No, ti sento Riccardi, vabbè qua arrivi 5 da me. Molte volte sei 9, 7, ma che altro stai usando adesso? Mi sa che ascoltato solo a me, innescando. Quando stai innescando? Sì, vabbè, il segnale mi arrivi 3, eh. A me arrivi, il segnale è 3, la radio è 4, però c'è il rinnesco. Sì, sentiamo 3 che sta arrivando a me. Sai che era 5, non mi ricordo, 6. Romero, beh scusa, vai troppo. No, sempre 3, 6. Dai, comunque riesco a tirarti fuori che ha problemi. Dimmi, Riccardi. Non lo so, io l'ho sentito l'altro giorno. Boh, io non posso, non chiamo. Ci sei? Ha detto Riccola nel pomeriggio, ci sei? Non c'è, non lo so che fine ha fatto. Non c'è niente da dire. Sai, è stato Claudio, vediamo, Claudio Spalviero. No, riprendi Claudio, lo senta Riccardino, sì? Ok, Luca, ti volevo chiedere, ma quanto tempo fa Claudio di pomeriggio? E di pomeriggio, cosa mi sta dicendo? Dipende, 9, 9.10, 9.30 mi è arrivato, dipende da come si mette. Dico, ma chi? Claudio o Lupo Grigio? No, è Claudio di Muro. Claudio di Muro come arriva? Santiago 7. Ma poi la segnale 8, la radio è un po' così, dai, un po' rimbombante, non so cosa stai usando. Sì, Riccardo, la 5 ottavi ho io, la moto fa 5. Conta che c'è uno su eBay, sta vendendo una Mantova turbo usata, 300 euro, questo è scemo. Sto valutando, dai. stavo valutando su, non so se l'hai mai visto, l'SS6009 da Superstar, CRTV6, guarda, su il B, poi ti dai un'occhiata, lo vedi. No, ti ho sentito l'altro giorno che l'hai detto, Black Colt? No, la marca è Colt, il modello è Black Shadow. Ma Shadow? Con la Shadow. Ah, Shadow, ho capito. Ma ho mai sentito. Vabbè, non mi piacciono queste, sì, magari messe in vetrina così, queste radio vintage, però... Guarda, ho dato una Roberto tanti anni fa, gli ho dato un Royce, in cambio di questo lo tengo adesso. Non so se te l'ha fatto vedere. Guarda, se tu vai, visto che sei molto appassionato, si vede che ti stai appassionando, se tu vai da Walter, dove c'è il bunker, ti spaventi, alla tensione della baffa, ma veramente va, nel vero senso della parola, rimani la bocca aperta se entri lì dentro, rimani, dici dove sto entrando, ma veramente va, se vai lì, rimani veramente la bocca aperta. Certo, già entra ogni tanto, dai, quando ne ha voglia, lui fa frequenza amatoriale, già entra, ha voglia, prima entrava spesso, dai, faceva un paio di chiacchiere con noi, fa delle prove, si volte sarà impegnato, non so, ma già si fa sentire, dai, già si fa sentire, ma anche da poco l'ho sentito, poco, boh, forse due o tre settimane fa, non so, non mi ricordo esattamente. Già entra. Lui già ne ha, Lui già c'è l'imbarazzo dalla scelta. E lo so, ma è quello che ha anche di roba. E anche l'ho visto l'altro ieri. Si vede che fanno il radio, è passato davanti a un spazio che stavano facendo benzina con due aspetti in regge roba. Prima da una parte con una dall'altra. Sì. Vabbè, poi lui c'ha una direttiva grande anche. Ci vuole posto per queste cose. E camera via, posto non ho una camera come tutti che c'è una camera fatta apposta per far metterti la radio. Io qua ci dormo anche, capito? Non c'ho spazio, dovevi inventarmi qualcosa. Farmi una specie di mobiletto apposta per mettermi per mettere anche magari uno da base, così, però non c'è spazio, per il momento sono veicolari, avanti Claudio, arrivo 5 minuti e arrivo, mi prendete? Ok, Hey. Giulio rientrato, dai, malato lo sei, Malato lo so, vuol dire che non va molto bene in questo. Ecco, ce l'hai adesso, è aumentato l'eco, Luca, ce l'hai eco? No, non si sente niente. Ah, vabbè, dai, d'accordo, dai, continuate, continuate, dai. È un po', come ti posso dire, boh, è forte un bel radio, però è malatosa. Lo so, vabbè, vuol dire che in questo baracchino non è molto adatto. Funziona, ma non è molto adatto, eh? Se no questo dovrebbe funzionare molto bene, il microfono. C'è un microfono stereo, c'è un microfono palmare ed M300. Però evidentemente adattato a questo baracchino qua non va molto bene. Va bene, continuate. Avanti, Black. Angelina, beh, mi guarda, c'è anche Roberto. È copiato Angelina a Riccardino. Dai, la riporta indietro, meno male. Avanti muro, se ascolti il giro di Alghero. Ma comunque la tela è già piazzata, sì? C'è lo stilo verticale già piazzato. Ah, ecco, già piazzato, ho capito. Pronto a piazzare. Eia. Mezzugai, là, va bene, avanti. Sto dicendo qualcosa, Riccardino? Allora, il discorso è che capisco, Mario, che stai comprando un microfono usato, va bene, ci sta, un usato, quello vale 30 euro, 30, 35 euro usato, perché purtroppo ha quel problema lì, ma non è che un negozio ti vende un microfono con, diciamo, con il coso, con il, come si chiama, la piastra tutta, non so se l'ha preso un colpo, se sono levato, non si capisce com'era con la piastra. In più ho capito che c'era un problema al potenziometro anche, se non sbaglio, giusto? Confermi? Ci vuole comunque, dai, perché il segnale tuo è basso, il microfono, diciamo che è stato un po' basso, di radio, o che ti avvicini, non so, magari c'hai il mic in basso. Riprendi Claudio, 5 minuti arrivo, dai, meno di 5 minuti arrivo, riprendi. Thank you. Riccardino, è a Sassari, eh. No, è Eugenio a Porto Torres. Ah, ecco, aspetta che è entrato il mongo, è entrato, aspetta. E cioè loro lo trovano, col microfono glielo infilano nel sedere. È uno che si gioca con la portata, io non so che gusto ci prende. Io capisco, sì, c'è il gusto, ma che gusto ci prende a rifumare le persone? Che poi magari è capitato così, quando mi disturbavano anni addietro, allora vanno a cercarlo lì. Usciva, magari c'era qualcuno in ruota, quando usciva di nascosto, non fa dire niente, la seconda volta l'ho trovato, e idea, ha preso anche schiaffi. Minchia, per carità, non so che gusto ci prendono. Secondo me sono pagati, magari sono pagati anche bene. Avanti Claudio. Luca. Sì, Giulia, avanti. Sì, ok, sei anche Riccardino che sta chiamando. Volevo sapere, ma chi è questo che mette la portante vicino a voi? Perché io qui non arrivo alla portante. Chi è? Secondo te chi è? Ehi, chi è? La domanda di scorta, non lo so. C'è una domanda di riserva, non di scorta, di riserva, non lo so. No, perché già un po' di tempo che sento questo, che c'è sempre una portante. E quanto ti arriva c'è questa portante? No, strano. Strano, perché se è quello che l'altra volta si stava alludendo al quel famoso calzolaio, ti ricordi, o Luca? Ma quello non è più di Baracchino, non può essere di lui, assolutamente. Non lo so. No, perché nei giorni scorsi ho sentito qualcuno che accusava, dice, quel Tostone del calzolaio, che sia Tostone, vabbè, già lo sappiamo. Questo non c'è, era evidente a tutti quanti. Però che lui abbia Baracchino no, perché non ne ha, ti posso garantire che non ne ha più, ma non da adesso no, già da qualche anno che non ne ha più, e lui viene sempre accusato che sta mettendo la portante, quello e qualche di un altro che mette la portante, più furbo magari che sono io, però non è quello. Non lo so, vabbè, non so cosa dirti. Appunto, avanti Riccardo. Vabbè Ricca, perché hai l'antenna anche non è performante, quando avrai l'antenna migliore allora ti sentiranno sicuramente, anche perché dove sei tu da quella posizione dovresti andare a 1000 veramente, perché sei in alto, per cui non aspetta, quando avrai l'antenna ti farai sentire sicuramente, però che ero da lì, da quella posizione dove sei tu, ci arrivi ad occhi chiusi, ci arriverai quando avrai l'antenna come si deve. Ciao Claudio, avanti. Sì, sì. No, adesso arriva bene Giulio, benissimo, la grande, bella radio, di lusso. Vabbè, comunque, qualcuno sarà che metterà portante Giulio, ma cioè alla fine sono gente fastidiosa. Luca. Eia. Guarda un po' come sto uscendo di radio adesso, che ho messo il cottone in quell'affare. Giusto, sei sul più del più 30. Ma sul 3 sì, la mazza. No, ma mi si arriva a sapere la radio, perché perché ho messo il cottone in questo microfono. Bella, bella, forte e chiaro. Gara. La stessa cosa bisogna fare a quello di Riccardino. Sì, sì, andami tu lo senti Angelino. Leggero in mezzo al QRM lo sento. Ma già l'ho sentito. Ciao Angelino. Spiegaglielo tu Luca a coso a Angelino che io non posso usare altra cosa che questo. Purtroppo. Ciao Angelino, Giulio da questa parte. Ok, no. Io forse ho sbagliato poc'anzi perché non so se c'è Claudio, perché ti avevo scambiato per Claudio, o perlomeno non lo so se era lui o se eri tu che stavi urlando poc'anzi. confermi che eri tu? Ah, c'è anche Claudio in frequenza? Ok. D'accordo, Angeli. Angeli, che antenna hai tu? Me lo puoi dire? Che antenna stai usando? Ho capito, sì. No, io sto usando un'antenna autocostruita, un dipolo autocostruito in verticale però, del tipo Game Master. Dunque l'ho copiata dalla Game Master originale e io l'ho costruita. Però tra un po' di giorni avrò quella originale perché ce l'avevo già da prima, poi l'avevo data e adesso me la riportano, me la restituiscono, per cui è solo questo del tempo, Angeli. Va bene, dai, facciamo il tempo. Avanti, Riccardino. Certo, beh, è ovvio, no? Col microfono amplificato è un'altra cosa, indubbiamente, non si può paragonare il microfono normale a quello preamplificato, certo. No, ma ieri sta riuscendo benissimo, a parte tutto il discorso che poi c'è stato, vabbè, lasciamo perdere quella storia, però come radio andava benissimo. E anche stasera si è stato bene ugualmente, perché non c'è molto QRM, per cui riesco ad ascoltarti abbastanza. Va bene. Avanti Fabrizio, ciao. Ciao, buonasera. Allora, un secondo solo, mi dovete dare un controllo di radio di segnale. Come sto andando? Io sto provando la radio. Sì, 9+20, ciao qua. Avevo scambiato col break per Fabrizio. 9+20 stai arrivando qua. La radio, aspetta che mi tolgo le cuffie e poi te lo dico, perché sono con le cuffie in questo momento. Vai. Ok, ciao Claudio, buonasera, poi Alghero mi dai un controllo, eh? Ok, Giulio, allora un passaggio solo ti chiedo, gentilmente. Questo è il passaggio numero 1, guarda il segnale, guarda che sei col grande, mi sembra, guarda lo Smith. Questo è il passaggio numero 1, ti ho cambiato le valvole. Questo è il passaggio numero 2, che differenza c'è? La differenza è notevole, però la radio è più bella quando hai abbassato, la radio è più bella, più pulita. Comunque da 9.20 sei passato a 9.5, una cosa del genere, sicché la differenza di segnale è tanta, però anche la radio c'è differenza, quando era più basso la radio era molto più pulita, bella, lo stesso anche l'altra, però quella molto migliore. Ok, allora, mentre invece così in questo passaggio, perdonatemi un secondo, vi lascio subito e non voglio disturbare, in questo passaggio la radio ha migliorato, va meglio? Sì, adesso ha migliorato, adesso non c'è quella specie di cracchiamento che c'era prima, perché prima c'era un leggerissimo cracchiamento, però era abbastanza buona, Perfetto, va bene. Angelino, do il cambio a te, mi dai un QRK per cortesia e poi vi lascio al vostro question e ci sentiamo dopo, che sto tarando una radio. Ok, vai Angelino, quanto ti sto arrivando ad Alghero. Ciao a tutti, compreso anche Riccardino. Avanti Angelino. Quindi confermi che in questo passaggio il segnale quanto è e se la radio va bene, ok? Confermi cosa, però dammi il segnale, mi devi dire quanto aumenta, cioè quanto ti sto arrivando di segnale da questo passaggio, ok, questo è il passaggio numero 1 e anche la radio, a questo passaggio numero 2, ok? Ok, quindi in questo passaggio qua praticamente la radio non è bella bella, ma è comprensibile Giulio, va bene? Caspita se è comprensibile, altro che comprensibilissima, solo che si sente che c'è un qualcosa. cosa che spinge di più, non è saturazione, non è disturbo, non è niente, però quando si abbassa il segnale la radio è più bella, più splendida, insomma, ecco. Prima ti dico che era buona, buonissima, mentre invece quando abbassi il segnale è ultima, anzi più che ultima. Perfetto, ci sto lavorando, adesso devo vedere che se è l'ingresso o che cos'è di questa radio. Vi ringrazio a tutti e ci sentiamo dopo, ok? Ok, ciao Claudio e ciao Angelino, allora, alle prossime. Facciamo girare avanti Roberto. Robertino si è assentato, Luca, non Robertino, sto sbagliando io, Riccardo, sempre mi confondo il nome, Riccardo. Ok, adesso rilanciamo per Natalino e vediamo un po' questa radio di Natalino. Io poc'anzi l'ho sentito bene. Natalino, io fammi ascoltare questa radio di nuovo. Se vuoi anche prima con un microfono e poi con l'altro e poi ti dirò, avanti. Oh, questo qui mi interessa, che gli ho tolto quell'affare di ferro che c'è attorno alla capsula, gli ho messo il cotone, capito? Volevo sapere se è migliorato di qualità, là. Io ti sento bene, Natalino, non trovo differenza da come la prima senza il cotone con questa lamierino che stai dicendo tu. Per me la radio è buona, è ultimo, il segnale è 8 modulati a 9. Riccardo, come